show. Oggi ho sentito che ero giù. Ok, scusa un attimo che mi sistemo la sedia qua. Sono quasi le 8, non c'è nessuno. Infatti non c'è mai nessuno. Sono tutta la sera io con la radio accesa qua, non si sente nessuno. Loro mi sentono, li sento. A me quando arrivano così non mi piace. Il PNR, c'è Battisio, c'è Graziano. Però sono tutti in mezzo a QRM. Possibile che non riescano a sistemarsi una posizione, sai che da lì non tutti si sentono. Loro tra di loro si sentono perché sono a due passi l'uno dall'altro. Ma se incominciano a parlare con qualcuno lontano, escono male, no? Non mi piace così. La verità, qualche volta, qualche passaggio riesco a sentire Graziano. Non so dove tenga nessuno. Sì, ma Graziano, se si mette nella posizione giusta, ideale, arriva bomba qua. Solo che non si mette sempre nella solita posizione a casa sua. E si sa, questa frequenza è purtroppo è così. Infatti delle volte arriva bomba, proprio schiaccia tutti. E delle volte invece arriva tutto quanto frusciato con QRM e balle varie. E lo stesso discorso vale anche per Bacchisio, la stessa cosa. E non solo per Bacchisio, anche tutti gli altri lateroceri della zona. Sono tutti vicini, loro si sentono. Loro non c'è bisogno di meno del PNR per sentirsi. Perché se si affacciano alla finestra si sentono. Si parlano direttamente dalla finestra, per dire. Ma qua non sono tutti i momenti che arrivano bene. Graziano, una volta gli ho detto un cazzo, pieta Filantello, una volta che tu arrivi qua da me, hai arrivato, tu sei a cavallo, sì, e non la tocchi più, la lasci stare. Anche se gli altri che sei vicino gli arrivi forte di segnale, che te ne frega a te? Infatti, sono tutti ben rilassati, non riesco a sistemarsi al 100%, ma per dire, dai. Non va bene così, non va bene. O ti fai sentire grazie a Dio, o io se no non mi piace nemmeno entrarci. Se non ti sento bene non mi piace nemmeno entrarci. E tu per stare lì, con l'orecchio attaccato al PNR, ti sento, non ti sento, ma non me ne frega niente di stare così. Magari arriva un altro fortissimo, arriva e quell'altro magari ribassi e ti pacca nella reci. Quando arrivi forte e quegli altri non li senti, devi stare sempre abbassando, aumentando il volume. Così non mi va, non mi piace. No, per essere tutti a un livello e basta. Ormai ci sono due fatti io quando uscivo, l'abbiamo periodo che ho ripreso a modulare, che con la base magnetica della 27 sul tetto, a confessa, con una piazza, a rimarre con due fatti io di avare. Tu arrivi con un segnalone qua, tu ne schiacci molte, ne schiacci da dove sei, già non credo, ma c'è l'antenna e è diverso il discorso. Ma io gli ho sempre detto, tu sai benissimo che in quella posizione adesso ti sento bene, perché non ti siedi lì? Non sarà così difficile io sedersi sempre nello stesso punto, visto e considerato che stai usando l'antennino e non stai usando l'antenna. Mettiti nella stessa posizione, così ti sentono tutti. È utile stare che ti nascondi, magari in un angolo, uno ti sente e dieci no. Ma va bene così. Purtroppo fanno così, non riesci bene, va bene così. Va bene così, l'importante è. Io vado la verità, io la radio come le lascio, come l'ho tarata dal primo inizio, l'ho lasciata, se per caso non va poi già me lo diranno. Certo, già lo credo, ma io so che quando devo parlare con PMR mi devo sedere al centro del letto. Quando mi siedo al centro del letto so che mi sentono tutti e sento a tutti. Però ti devi attrezzare anche tu per dire no, e se no non ti posso sentire, è utile che io mi metto in una posizione buona e tu ti nascondi. No, non va bene, ma non l'hanno ancora compreso, per carità, mi devo parlare. spagnolanza, lei. Diciamo che siamo fottuti, quando ci abbiamo un contatto in mano magari ci sforziamo, non ce ne accorgiamo e il segnale si abbassa. L'unica è così, l'antenna io non c'è più. Male male dondola, ma non si può. Infatti, l'unica cosa sarebbe quella, indubbiamente, però avete considerato che vuoi parlare con l'antenna, con lo, il gommino. Va bene, nessuno dice no. Mettiti in una zona dove ti ho sempre sentito bene, non ti stai chiedi acquati un buzzurro e da buoi che ti arrivai dove non mi arrivi. No, va bene. Sappiamo benissimo come questa frequenza. Questa frequenza, se non c'è visione ottica tra le antenne, per così dire, no? Tra virgolette, non funziona, non va, è inutile stare lì. O perlomeno andiamo tutti, invece se non se ne parla più. Stato tirati e frabinati, uno in un canale, uno nell'altro, io non lo so, la mentalità della gente era pare che gli sia abituato con un bottiglio di un bucchio busciacara, ma non è possibile, dai. Ed è ignorante, questa è diventata la frequenza da ignorante qui a Sassari, non è possibile, guarda. Sì, vabbè. Mi ricordi quando c'era un periodo che quando lavoravo in un punto dove facevo il carico non ti ascoltavo a te. Sì, io a te ti ascoltavo, tu a me no, non mi prendevi mai, non mi ascoltavi mai. Infatti ti chiamavo ma niente da fare. Poi una sera ero libero e non avevo niente da fare, mi ho preso per tassila e voi eravate tutti in radio con DMR. Ho fatto il giro del campanone, l'ho fatto, e ho trovato il punto giusto che parlavo con tutti quanti. Ma dal giorno sapevo già dove andare. E appunto è quello che dico io, ma quando mai che in tutti questi anni ancora uno non sia riuscito a capire dove si deve mettere per parlare il PMR? E questo, ma tu sei già giustificato, tu stai elaborando, giustamente non ti potevi mettere di proposito lì. Ma se uno è a casa sua, che per cosa di gusto, anzi fusati mai di cucina, di bosi in salotto, o ti bosi in camera da letto, o ti bosi in altra roba come. Io non riesco a capire, ragazzi, la gente, se no non ti metterei nemmeno in radio, perché dai anche fastidio, a me mi dà anche fastidio quando sento e non sento, la verità. Ma io avrei fatto di tutto per riuscire bene, di tutto avrei fatto, a posto di questo, sono troppo di tutto. È chiaro, io mi ricordo che addirittura ho sentito a Sandro una volta in Corsica col PMR, figurati un po' se io mi devo preoccupare di uscire male, ma pure se io mi preparo una cosa me la preparo per farmi sentire, no, non per dare fastidio, perché se uno lo sente, o meglio sente e non sente, mi stai dando solo fastidio, perché interrompi il QFO, interrompi. Queste cose qua, ed è snervante così, non va bene, non va ancora compresa, cosa vuoi dire, vuoi dire via di Russi, in Corsica ci ho parlato, quando è, un mese fa ci ho parlato, un mese e mezzo, adesso mi ricordo, con uno che era lì a Bracciano, il mare che si chiama, Bracciano. Appunto, io, dove andava, lo sentivo sempre a Sandro, da Sentino, da Porto Torres, da Caterzano, tutti i rubi, il mare, quando era il mare poi, dalla Ginara, vicino alla Ginara. Io mi ricordo una volta che avevo fatto la passeggiata insieme ad un amico in barca, e l'ho collegato dappertutto, dalla Ginara, dalla parte di Castiglio Sardo, da tutte le parti. Ma se uno non si attrezza, se uno non ha diciamo così un minimo di intuito o addirittura di intelligenza senza offendere a nessuno, ma non riesco a concepire come uno possa presentarsi per non farsi sentire. O ti credi Buddu e ascolti e basta, o perlomeno mettiti in condizioni che gli altri si sentano. Sì, quello è vero. Ma con il canale, con l'applicazione, portare la Francia, devi mettere anche la bandiera della Francia, ne puoi mettere due anche di bandiere. Ah, non, questo non te lo so dire, bisognerebbe chiedere, sai che si può chiedere, poc'anzi ci stavo anche parlando io, con questo Massimo, che telefona, che vabbè, telefona, che parla dalla Germania, dai. Quello sembra che sia abbastanza addentrato in tutto e per tutto, si potrebbe chiedere a quello. Era poco fa sul canale, se ricordo bene era sul canale 12, mi sembra, boh, adesso non ricordo, ma forse era lì. Massimo, quello che parla dalla Germania. Sì. Adesso ci provo a parlarne una. Provaci, o fa. Come sto Francia, cosa sono la Francia? Sta dicendo qua, scusa un attimo, che ha fatto qua, perché adesso, perché se no, perché la promozione, sta dicendo qua. Ho detto, ho messo Francia, e adesso ascolto solo la Francia. Ma ascolti adesso la Francia, sì? Sì, ma l'Italia no. Evidentemente è quello, ma sul, dove sei andato? Sul canale esatto sei andato, o sul gruppo? Sul gruppo? E come hai fatto, quando stai parlando, come hai fatto per mettere la Francia? Io, cosa hai fatto? Devi fare di nuovo l'applicazione? No, allora, tu vai quadratino sopra, dove ci sono quelle vignette, non so se ne hai tre o quattro tu, io ne ho quattro, dove c'è il numero delle persone che ci sono, sopra, di fronte al Midland, allora schiacci quello, poi vai impostazioni, vai, poi vai profilo, e ti esce il tuo nome e la bandiera. Schiaccia sulla bandiera e ti escono tutte le bandiere. Ti escono. E poi prendi la bandiera dei gigoli, la schiacci, la memorizzi e parli con quella. Ah, ho capito. Sulla rubrica, devo andare sulla rubrica, schiacciare su impostazioni e poi mi appare appunto tutte le azioni, dai, schiaccio su quella bandiera lì e dunque entro in collegamento con quella, con quel posto, così. Che lo tengo questo. Adesso ho capito com'è. Vediamo, adesso ci provo io là, ci provo, vediamo un po' se riesco a, adesso in questo momento mi manca l'applicazione, dovrei rifare qualcosa, ecco qua, poc'anzi sono andato sul canale 14 di quello canalizzato, c'era questo Antonio, l'ho chiamato un paio di volte e non mi ha mai risposto, c'era solo lui. E non mi ha risposto. Vabbè, fa niente. Ci provo, dopo ci provo qua, a vedere come questa sua. Sì, quello vai, schiacci lì, schiacci sopra, sono delle lineette, schiacci lì. Poi ti esce il coso, impostazioni, una volta ti esce l'altra pagina, metti profilo e ti esce subito la bandiera. Ok, ho capito. Sì. Dopo ci provo a vedere come come funziona. Bisogna diciamo studiarlo bene. Sì, diciamo che già so quasi tutto, là, però questo particolare non lo sapevo. Adesso tu me l'hai spiegato e dunque bisognerebbe giocarsi, là, per capire bene a fondo com'è tutto il procedimento, tutto il funzionamento. Io non volevo fare quello, io volevo dire di avere la bandiera sia francese sia italiana, per parlare sia con l'Italia sia con la Francia, cioè in modo che noi prendiamo la Corsica qua anche, ci abbiamo, io francese e via. E invece no, una volta che tu cambi la bandiera sei tutto di un'altra nazione. Ho capito. Sì. ci provo, così vediamo se riesco a capirne qualcosina. Diciamo che ci sono ancora, comunque poc'anzi ero su DM e c'ero tu a Mike, no? E non niente a fare, lì non sentivo niente e c'era qualcuno che stava parlando, ne sentivo e ne riuscivo a parlarci, per cui non lo so, comunque se non c'è il microfono per quella versione lì non penso che ci sia possibilità. Ho messo quel dire la Francia, ho messo, stanno parlando in francese, stanno parlando. E a posto di essere Italia 01, Italia 02, Francia 01, Francia 02. Ah, così è. Oh. Ma non è che ci sarà qualche traduttore, no, invece? Che magari i canali sono sempre quelli gli stessi, anche quelli italiani, però allo stesso tempo ci sarà qualche sistema che traduce la lingua italiana in francese, non è che sarà la stessa cosa, boh. Ma non lo so questo, è dalla Corsica non c'è neanche un'anima, sicuramente dalla Francia proprio. Evidentemente è così. Sì, no, io alle volte, quando vado sul canalizzato, vedo tanti puntini grigi, ma non solamente in un posto, anche da tutta l'Italia, però non vedo mai nessuno che parla di queste cose grigie. Evidentemente dovrò proprio utilizzare la lingua straniera, come stai dicendo tu, Francia oppure Germania o che so io, altri, boh. Ecco, in effetti queste sono tutte a Parigi, sono Francia, Parigi, Belgio, tutta quella zona lì, sono tutti puntini. Sì, ma io sto parlando di quando ci sono i dischetti, quei puntini grigi, anziché essere blu oppure verdi oppure rossi quando parlano, che ci sono i puntini grigi. Non ho capito bene come funzionano, forse funzionano sul canalizzato quelli, magari col dual mic, non lo so, evidentemente qualche cosa c'è che bisognerebbe fare, non lo so. Non lo so quello non lo so neanche io, non lo so. Infatti adesso io la sto verificando, infatti adesso sono spariti tutti quanti, sono spariti. Però adesso ci metto di nuovo la mia, vediamo un po'. Però quello che stai dicendo tu non lo so proprio, perché non ho mai, addirittura non sapevo neanche questo, l'ho presentato adesso. Ho capito, sì. Vabbè, dai, bisognerebbe studiarlo bene. O perlomeno chiedere a qualcuno che è già pratico. Questa applicazione, stavo ascoltando, dice che è iniziato verso luglio, una cosa così, del 2018. Vabbè, noi quanto tempo ci siamo? Noi ci siamo già un paio di mesi, buoni, no? Qualche mese, penso, non di più. Un paio di mesi già ci siamo, dai, più o meno un paio di mesi, due mesi, boh, di preciso adesso non lo so, ma penso di sì. Però l'applicazione dice che esiste già da luglio, quelli stavano dicendo, col Massimo lo stava dicendo, quello che parla della Germania. Sì, molta gente, anche io ho sentito anche parlare tra di loro, c'è molta gente che ha detto che ce l'hanno da molto tempo, diciamo dall'inizio dell'anno, nell'anno 2017. Addirittura, boh, non lo so, la verità. Vabbè, comunque. Sì, però deve essere una cosa che è esplosa adesso, o perlomeno prima dice, addirittura stava dicendo questo Massimo che il puntino rosso che si vede quando uno parla, addirittura prima era fatto in maniera ancora più dettagliata, praticamente si dava proprio la posizione esatta, grosso modo, di dove si trova, non solamente la città, no. proprio al punto dove uno era, da dove stavo parlando. E poi invece la Midland dice che ha cambiato il sistema e l'ha reso meno preciso, perché qualcuno si lamentava che magari c'erano i camperisti che avevano paura che andassero a rubare dal camper, tutte queste belle cose qua. No, mi sono sbagliato poco fa, non 2017, 2018, tutto il 2018, là, mi sembra che l'hanno detto, sì. Diciamo che se tu allarghi la mappa vedi il punto preciso, che io a volte, guarda quando andiamo nel canalizzato e tu allarghi tutta la mappa, ti fa vedere tutto il punto di dove sei tu. Sì, quando sì, si dice in linea di massima ti dice dove sei, in quale posizione, ma prima addirittura a quanto sembra indicava anche la strada, la via da dove uno modulava, per dire, no? È questo che intendevo dire. Però a questo punto dice che è intervenuto la Midland e ha rimosso questo, diciamo così, questa grande precisione che c'era prima, e l'ha ridotta solo al punto, alla località dove ti trovi, ma non alla strada, alla via dove sei, capito? Quello è anche giusto. Io se no, se si ammazzano. Come ho sentito quel mese scorso, adesso questo mese non mi sto sentendo di apparatura più grosso. Ma prima, caspita, vengo lì, ti cerco, ti faccio a pezzi, la guerra. Sì, infatti, allora per effetto di questo cosa qua, di questo particolare, la Midland ha ridotto la sensibilità della mappa, ecco cosa ha fatto. Sì, ti dice la località, magari ti dice i punti, però è dove sì, boh, oppure ti dice tanto, io so, insomma, dove sei di preciso, boh. No, ma è meglio così. Anzi, se non c'erano quelli era meglio ancora, perché almeno la gente stava lì a dire se in quella zona lì va a cercare, fare, se, anche se è approssimativa la zona, era meglio che non c'era neanche quella. Infatti, perché non sarebbe nemmeno giusto, se no dov'è la privacy? La privacy se no non esisterebbe nemmeno. In effetti è così, per cui va bene. Ma tu la volta è accesa stasera? Ma io sono salito qua, erano le 6, ho acceso, fatto la chiamata, non c'era nessuno, ha detto, poi avevo il coso, nel PMR tutto abbassato, ce l'avevo, il volume, e non l'avevo sentito neanche, poi l'ho sollevato e ho sentito il coso. Alessio prima ho sentito, poi non ho sentito più nessuno. Io ho capito, sì. Io, nel senso, ce l'avevo abbassato il volume, e dunque, prima stavo guardando la partita, ma da presto questo, alle 3, c'era il Milan, e ho guardato la partita. Dopo che ho finito la partita, stavo guardando YouTube, facevo un po' il tablet su YouTube e un po' la televisione nel settore sport, canale 60 ad esempio, o canale 152, a seconda dei momenti. Poi ho fatto, qualcuno si affaccerà, allora ho acceso il PMR, c'era Graziano, ma era tutto tanto per il raccado, per cui non mi andava di entrarci. Tutto molto male. Allora ho voluto chiamare a te perché tanto so che il soprammuto in PMR tranquillamente ti sei fatto avanti. Capo, poi ti ho sentito, infatti lo stavo scendendo giù, ho aiutato me, ha detto un attimo me. E allora ho salito e infatti ti ho detto vieni con la 10, che parlare di PMR noi mi devo assai. Sì, va. Scusa appena. Ok. Stava chiedendo solo delle cose. Stavo dicendo. me parlare in prima ero, non è di avversario, meglio qua in 17, che ci ascoltiamo più bene, vediamo insegnare come si deve, e tutto. Beh, certo, già quello, no, è tutta un'altra cosa, il baracchino è tutta un'altra cosa, che puoi evitare il baracchino, qua è radio. Allora, sì, ma ti ho sentito benissimo quando mi hai detto di passare sul 10, l'hai chicciato alla grande, tutti e due. Ripeto, se non escono bene, cosa stai a fare? Questo fatto del PMR, ma perché dobbiamo abbandonare il baracchino per il PMR? Diciamo che alla volta non c'è nessuno che si incontra, almeno con farsi mezz'ora così parlando, e c'entro anch'io perché c'entro, non è che non entro, però se entro fate qua, a me, non stare lì a farmi stare con un legno attaccato al portatilino proprio per sentirti, o magari arriva l'altro forte e devo allontanarmi, ma che di colpo mi ne traghido e mi pacca la legge, per dire non va bene, metti a piombo e basta, perché non l'ha ancora coprita. Ecco. Io ti dico una cosa, a me il fatto di che ti sento un po' e poi ti abbassi e non capisco quello che dici, poi magari ti devo dare la risposta e non riesco a dartela e magari rimango vicino o non piace assai. Beh, penso che non piaccia a tanti questo fatto qua, o ti fai sentire o perlomeno stai zitto, se no non va bene, dai, non va bene fare questione in quella maniera, assolutamente no. Sono dovuti, non ci posso parlare, primo perché non conosco la loro lingua, secondo perché non li sento, per cui cosa so che chi ha te la ronca, a proposito dovremmo sempre ricordare di scattare quella fotografia e mandarti quella fare di quella base, porca miseria, stasera presto ce l'avevo in mente e poi mi sono di nuovo dimenticato, adesso me ne sono ricordato di nuovo, ma speriamo di ricordarmene domani, così prendo quel morso, lo smonto e guardo, ti faccio la foto e te la mando. Ora. E va bene, non hai detto che non è appena lì, diciamo, sta più bello adesso, non è che devi fare certe cose. Intanto ne ho tempo di farlo, che prima di che cominci le giornate belle non va proprio giù l'antenna, ma manco il bassoio. Beh certo, adesso non è che si può fare, sta piovendo e poi il tempo non è che sia così buono, poi non è una cosa così urgente, però avete considerato che ti avevo promesso che ti mandavo la foto, se la mando ci mancherebbe altro, quindi è così qua. Vabbè dai, avanti per tutti nessuno, avanti per i pari di pure dal BRR, non ho sentito nemmeno la Claudia stasera. Magari sarà anche il Lugano, no, dalle 8 meno 10 subito. Tutti morti. Mio Alessi di Bocco, mamma mia. Alessi di Bocco, insomma, chi c'è un Alessi di Bocco? Ciao Marco, ma perché non ti svegli presto la sera, che sono tutta la sera con la radio accesa e non si sente un'anima, se non te lo dico bene, un'amina, non un'anima, un'amina, come la voce diciamo qui a Sassari per scherzare. Ciao Marco, avanti. Buonasera a tutti, io acceso un minuto fa perché mi stavo afferrando tutta la sera con dei videoregistratori, di cui due a videocassette ancora, come negli anni 90, 80-90, e funzionano sia lettura che registrazione. Invece purtroppo quel videoregistratore con i DVD legge i DVD ma non registra più. E non credo che valga la pena nemmeno aggiustarlo, perché chissà quanto ti chiedono. Capito Giulio, ero tutto cavi, cavetti, prese SCART, cavi audio video, HDMI. Vabbè, peccato però. La roba prima funzionava, l'ho lasciato fermo e spento per tanto tempo e come vedi, la roba lasciarla ferma e spenta si sciabideggia. Sì, Marco, ma sai cos'è? Probabilmente non ti registra più, perché quel, ne ho tre io di registratori così a cassetta. E stavo dicendo, probabilmente non ti registra per il semplice fatto che adesso c'è il digitale terrestre, mentre invece quelli registravano contemporaneamente, vedevi un programma e registrava anche un altro programma, volendo, ma era in digitale, quelli sono digitali. Probabilmente ci vuole il registratore che registri in digitale. Ecco qual è il problema, Marco. No. Una volta che il segnale è convertito a segnale audio-video, ho già provato. Allora, i videoregistratori a cassetta registrano entrambi dal decoder. Invece quello a DVD proprio non funziona perché, ti dispiego, non apre neanche il menu del disco, non inizializza il disco. Legge solo, probabilmente c'è l'ottica parzialmente sporca da cambiare, o peggio, qualche scheda da cambiare, ma non ne vale la pena ormai. Ui. Ma chi registra più dalla TV peraltro? Così ogni tanto metti che sto guardando un film, passa un amico, allora metto a registrare e me lo guardo appena torno. Va solo per quello, mi. Ho capito. Va bene, comunque. Hai passato la serata divertendoti con il registratore, o meglio, con i registratori. Avanti, fra. Ciao, Marco. Ma io quella roba lì ce l'avevo tutta buttata, ce l'avevo. E mi sono tenuto solo un DVD per il CD, mi sono tenuto solo per il CD, poi del resto ho buttato fuori tutto, bandezza. E poi mi sa che conveniva tenerli, perché mi pare che passiamo d'ora di Sagosa. Ma erano funzionanti quello lì buttati? E allora, funzionava, non è che una piastra ci hanno buttato, non funzionava, della paiola. Sacrilegio! Caspita, io penso che, proprio perché sapevo che, aspetta, già c'è libero, sì. Ok, proprio sapendo che i videoregistratori ormai dovevano uscire dal commercio e così le videocassette, mi ero preso due videoregistratori, uno LG, uno Philips, ma stiamo già parlando di oltre 10 anni fa, forse 15. E poi mi sono messo da parte varie videocassette TDK, un po' una scorta mi sono fatto, che tanto dureranno a vita per quanto li uso. E avevo fatto anche un po' di scorta di videocassette, sai quali? Allora, le microcassette per il mini registratore a cassettine, quelle tipo segreteria telefonica. Poi mi ero conservato un videocassette AI-8, non so se avete presente, quelle per le telecamere, no, sarebbero 8 mm però AI-8, come dire super VHS, e poi lo stesso, il mini DV che è uscito lo stesso di scena, avevo comprato cassette mini DV di scorta, devo solo comprare le batterie per le videocamere. Le vere videocamere come erano una volta, no? Ma io ho addirittura ho... Sì, intanto ti volevo dare una risposta sul fatto del registratore. Io registro lo stesso, sì, Marco, con quel registratore. Però prima, cosa succedeva? Quando c'era l'analogico, tu uscivi, ad esempio, ti sintonizzavi, ti programmavi il registratore e ti registrava anche col televisore spento. Mentre invece adesso, essendo la trasmissione digitale, il registratore analogico, perché io ho quelli, registra sì, però devo registrare quello che sto vedendo e basta, non posso posso registrare nient'altro, cioè non registrare più come dovrebbe, come era prima, mi sono spiegato. Poi per quanto riguarda le piastre eccetera, io addirittura ho intanto uno stereo che trasforma le cassette, le trasforma in DVD, primo. Poi ho ancora i vecchissimi nastri stereo 8 che puoi immaginare, perché li utilizzo con un adattatore, cioè sulla radio ci metto questo adattatore, che non è altro che un altro nastro in pratica, no? E a sua volta ci metto anche il nastro stereo 8 e lo posso registrare e posso anche ascoltare. Mi sono spiegato, Marco? Sì, sì. Mi ricordo lo stereo 8, io penso che la prima volta dal vivo l'ho visto a casa di Paoletto, siccome lui si trattava bene, no? C'era anche lo stereo 8 e il lettore, ogni parasone poi. E poi, diciamo, le cassette stereo 8 sembravano quasi delle videocassette, un po' più piccole, ma ricorda le videocassette 8 mm, mi capisco. Allora Giulio, sai perché potevi guardare un canale e registrarne un altro? Perché in tutti i videoregistratori a cassetta avevano un loro sintonizzatore interno, analogico ovviamente, quindi tu potevi registrare il canale, ti registravi il canale che volevi e poi ne guardavi un altro, perché giustamente il televisore aveva un sintonizzatore suo. Invece poi, come è successo questo del digitale terrestre, praticamente ci serve un decoder o interno o esterno. Io al momento l'ho messo esterno e quindi o mi devo guardare quello che registro, oppure se non devo comunque guardare la TV posso spegnere il computer, perché il decoder che sto usando è esterno. Ho capito. Sì, ma in effetti è così, appunto, perché con l'analogico, con l'altro digitale, il programma, dunque con il registratore non può più registrare se non guardi, perlomeno a me mi succede così. Va bene, avanti fra. Figurati che io quando ero un ragazzo avevo preso una macchina da alghiero, l'avevo occupata, c'era lo stereo 8 dentro, c'era con quella cassetta grande, figurati, e non sapevo mai come che funzionava. Peccato che come sistema non è decollato. Ma Giulio, tu che magari te lo ricordi meglio, lo stereo 8 in che anno può essere nato? Caspita, io ho preso negli anni, sicuramente negli anni 60, io mi ricordo, perché quando io ancora lavoravo, facevo l'elettricista, c'era già, perché la sera quando rientravo dal cantiere, che allora facevo l'elettricista, e mi mettevo di fianco al radiotecnico, al laboratorio, e c'erano già queste apparecchiature. Sì, ma è così, sicuramente è così, Omar. Attimo, scusate che ho dovuto spegnere, mi stava bollendo la pentola con la roba, l'avevo riscaldata un po' troppo. E guarda, poi adesso con lo smartphone do un'occhiata e vediamo quando è stato creato il sistema, è un conto. Poi sai, a quando arrivare in Italia sarà arrivato 2-3 anni dopo, se non di più. Beh, questo non te lo so dire, ma io mi ricordo che già negli anni 60 esisteva già, la verità. Guardate che mi sto sbagliando, ma mi ricordo benissimo che già in quel periodo in laboratorio c'era qualcuno che portava appunto lo stereo, anche l'altro radio per imparare. Tu piuttosto non hai mai conosciuto il baracchino che ci aveva entro contenuto anche l'autoradio, che aveva entro contenuto il baracchino. Tu quello non l'hai mai visto? Allora, solo su internet l'ho visto. Il baracchino autoradio. Ti ammazza, oh. Non mi piaceva peraltro, vabbè. Mi pare avesse due uscite, una l'antenna 50 ohm per il baracchino e poi quello attacco bucato, come dire, quello per l'autoradio, per l'antenna autoradio, o sbaglio? Ah, io ce l'ho avuto. Tu pensa che allora negli anni 72, quando sono entrato in frequenza, avevo nella macchina avevo la radio, quella elettrica, l'antenna elettrica a cannocchiare, no? Schiacciavi un pulsante e si sollevava l'antenna, però per il baracchino e la corta, per la frequenza del baracchino. Allora ti avevo fatto un innesto, sempre un pezzo di antenna vecchia, per allungarla e beh, un punto usavo anche il baracchino che c'era nella questo contenuto nell'autoradio. Per cui sì, poi l'ho dato, non mi ricordo dove era tipo, poi l'ho dato fuori, allora il primo apparecchio nuovo, quello che ho comprato, l'ho comprato in via Principessa Maria, da Costantino Fara, mi ricordo, ed era un Inno Itti alla stazione fissa, alla stazione base, però funzionava anche a 12, sia a 220 che a 12, ed era un 23 canali, era con tanto di orologio, sveglia, allarme, tutte queste cose qua, tipo come il pugno di una volta, ecco, non so se Franco l'ha conosciuto, ma era... No. No, li ho conosciuti io, ho iniziato tardi, molto più tardi di voi a modulare. Ok, sì, era un bellissimo apparecchio, che poi io ci avevo abbinato il microfono autocostruito, quello da tavolo, ho fatto in legno, perché avevo preso esattamente le misure e anche lo stile del Turner più 3. Una volta avevo fatto le mani un microfono della SBE, sempre da tavolo, da lì avevo copiato il circuitino, avevo copiato, allora ho preso la briga di costruire microfoni in legno, tu vedi il 3 è uguale, identico, stesse misure, stessa forma, identico, solo che era in legno, e dentro ci mettevo questo circuitino ed era una bomba, funzionava da una meraviglia, ne avevo fatto diversi, a tanta gente l'avevo dato, per cui, e poi questo circuitino si poteva mettere anche dentro una scatoletta di alluminio e utilizzare il microfono suo originale, e si trasformava in microfono amplificato, era una bomba, usciva che era una meraviglia. Avanti tra ancora. Si è fatto bene, già lo credo. Io il primo baracchino che ho avuto me l'ha dato un amico mio, me l'ha dato, dall'altro lavoravamo insieme, e me l'ha dato il faccio 2030, non so se te lo ricordi quello, sicuramente tutti lo ricordi. E dopo quello avevo preso l'FM500S e sono rimasto sempre con quello. Sì, me lo ricordo. L'8030 me lo ricordo, io quello non l'ho avuto, io ho avuto l'MS500S e quello l'ho avuto e l'avevo anche trasformato in 52-53 canali, perché quello era 34 canali normali, era, però di cui ce n'erano 23 mi sembra o 24 normalissimi come l'UCB normale, poi c'erano i canali sotto. Io all'interno avevo avuto fra le mani una di quelle riviste di elettronica, mi sembra che era Cicco Elettronica, e mi sembra che ce l'ho ancora, se ricordo bene, col giornale. E c'era la modifica da fare, bastava spostare un filo nella base che c'era del commutatore dei canali, da un punto all'altro. E l'avevo letto e l'ho fatto ed erano diventati intanto 40 canali, cioè meglio, mi spiego meglio, da 1 a 39 canali normalissimi, mentre invece il canale 40, perché non avevo io spaccato il bloccaggio del commutatore, e allora ottenevo il canale 40 fra l'1 e il 2, accavallandolo a metà. Riuscivo a prendere, perché non ho voluto rompere il bloccaggio, perché in quei canali lì, in quelle baracchini c'è un bloccaggio che in realtà è di plastica, basta forzarlo e arrivavi anche a 40 per dire, no? Mentre io non ho voluto toccare. spalla come era quello, e però avevo fatto questa modifica con questo filo da un, da un, una pista l'ho portata all'altra e avevo ottenuto i 40 canali, compreso quello che accavallavo tra l'1 e il 2, che era il canale 40, più se ne erano aggiunti altre una quindicina di canali sotto, altri che avrebbe solo 8 canali sotto, perché mi ricordo che erano 8, erano diventati una quindicina. Sì, sì, è vero, però io avevo quello da 40 canali, che avevo direttamente uscito così, perché erano due versioni, uno 34 e uno 40, io avevo quello da 40. E poi gli ho messo la scheda, e avevo messo la scheda a 120 canali. Sì, perché c'era sempre quella possibilità di inserire la scheda, certo, è vero. È vero. Avanti Marco. Eccomi. Stavo un po' spolverando i supporti audio di... allora, lo stereotto è nato nel 66, progettato nel 64 e uscito nel 66. Anche se in America più ha avuto più diffusione, in realtà in Europa ha preso piede più la musica setta, che cosa che non sapevo, esistevano già dal 65 le musicassette classiche. Qui stavo vedendo roba che è nata morta, vabbè, il mini disc, non so se l'hai mai visto Giulio, mini disc, dati in digitale, sembrava una specie di CD piccolo all'interno di una custodia trasparente e quadrata, magari Franco ce l'ha più presente. E per fare concorrenza alla Sony avevo fatto il DCC, Digital Compact Cassette, una cosa tutta strana che non ho nemmeno mai vista, e purtroppo è roba che poi sparisce, il mini disc è durato poco, eccetera. Oh, l'altra volta per fare rimanere di stucco, siccome tutti adesso sono collettore MP3 e queste cose, l'altro giorno mi sono portato il Walkman, il Sony Walkman alla cintura con le cuffie, a cassette, gente guardando le beat. ce l'ho io, ho anche il Magiadischi, ho, poi ho anche un piccolo Walkman con la mini cassetta, proprio, che dura, mi sembra, una mezz'oretta, perché è una mini cassetta, non è che ci sia molto. Sono di solito io le cassette, le serie 7, io le ho sempre prese, quelle da un'ora e mezzo, le ho sempre prese, anche da due ore le prendevo. Però devi avere anche la apparecchiatura adatta, perché se tu la utilizzi in una radio di pochi soldi la potrebbe danneggiare, mentre invece se metti una radio come si deve, allora ce la fa a trascinarla, perché c'è troppo nastro, no? E quando c'è troppo nastro diventa più pesante il motorino, se non è una radio di un certo valore, soffre troppo. Sì, la trascina lo stesso, però è solo questione del tempo, che prima o poi si blocca la radio. Va bene, avanti fra. Scusa un attimo che devo finire una cosa. Riprendi Marco. Via. Adesso vediamo se busco quella... No, che shopping. Volevo vedere quella CB Autoradio. Io l'ho vista ma un po' di tempo fa. Quella che era sia tua autoradio che CD. E va a trovare adesso, ui. No, va a trovare, si trova tutto. E la voglia se si trova. Magari se la fanno pagare anche un bel po', però si trova. Ci sono gli hobbisti che hanno, o meglio i collezionisti, che alle volte vendono anche certe apparecchiature, perché magari ne hanno diverse, e allora ne hanno in abbondanza e vogliono anche fare soldi. Ci sono. Già già qualcosa, eh? Mamma mia, il telefono, aspetta. Tutto si può provare a comprare. Ce n'è roba, vecchia, nuova, di tutto di più c'è. Quando c'è il baracchino, buttalo via il telefono. E così è fa, ma certo, l'unica cosa che ci vogliono sempre i soldi, e poi uno con i soldi ottiene tutto, no? O quasi tutto nella vita, per cui no, una cosa sola non si può comprare, la salute, però alle volte anche quella si può comprare, però ha sempre un punto, c'è sempre un limite per quello, per il resto no, invece, i limiti non ce ne sono. Ottiene tutto, è vero qua? Quello che è vero. E stamattina mi hanno mandato un video che dice che questo qua stava parlando, a fare girare, dice che hanno trovato la cosa del cancro, hanno trovato, sanno cos'è, ma non la mettono in funzione, non la mettono. Chissà perché non la vogliono far sapere. Ma quando mai uno che se la gente ci mette danno, fanno offerte per il cancro, per tutto queste cose, che paga anche la popolazione, non me lo fa, quando lo scopre non me lo fai sapere, ma questo è un scemo. Anche quello c'è il discorso soldi, anche lì, e per quello c'è una professoressa avanti, io la considero una scienziata di Sassari, che ha studiato all'università di Sassari, che ha fatto delle ricerche e ha trovato anche la medicina giusta, non per tutti i tipi di tumore, però diciamo che per una certa qualità di tumore è riuscita ad ottenere, ed è in America che sta appunto sempre studiando, ma è anni che sta studiando, e finalmente è riuscita a trovare questa medicina giusta per un tipo, non per tutti i tipi di tumore, però qui subentra anche il discorso case farmaceutiche, i soldi, il discorso è sempre quello, perché a un certo punto queste ricerche diventano un fatto commerciale più che altro, perché io sono convinto che tutte le ricerche che hanno fatto in tutti questi anni, quando mai non hanno trovato la soluzione giusta. Soluzioni è vero, ne hanno trovato, tant'è vero, tante persone riescono a guarire anche, però quando ci sono forme un po' più avanzate, e allora è difficile veramente. Non lo so, è sempre una questione di soldi, fra. Sì, ma però la ricerca quando si porta a termine devi attivarla, perché uno che se adesso hanno trovato questa cosa per il cancro, perché non la attivano? Perché non salvano delle persone? Invece no, li lasciano morire lo stesso. Sì, ma tu pensa, adesso l'altro giorno, tempo fa stavo parlando con uno che parla dalla Sicilia. Se ricordo bene si chiama Vittorio, no, Angelino mi sembra che si chiamasse. E lui aveva inventato, secondo la sua testa, di parlare con il CB-Talk senza avere il telefono in mano. Così a distanza aveva inventato un sistema così solo con l'impronta della mano, eccetera. Io volevo ritirare. E questo qui è anche un animatore. E gli avevo detto, allora perché non svelo il segreto? Dimmi come si fa, così lo facciamo tutti. No, lui geloso non l'ha detto. Poi che naturalmente c'è stato qualche deficiente che lo riprendeva. Ma ti sembra che lui deve svelare il suo segreto? Accidenti, ho creato il segreto importante che hai. Fino al proprio contrario, uno che parla al baracchino, perché noi in pratica stiamo parlando al telefono, ma siamo al baracchino. E lui lo sa sicuramente, essendo un radioamatore, che queste cose fra i radioamatori e fra i CB si sono sempre svelate, le ricerche, le cose che abbiamo fatto. Per quale motivo? l'avrei detto. Ho inventato un sistema che per parlare così, ma te lo dico e basta, quella me ne frega a me. Come abbiamo sempre fatto, insomma. Sì, magari quello lì avrebbe detto pagato. Sì, se vuoi pagare due, ma chi gli porta il capo? Quello lì, io sono convinto, intanto che non ho inventato niente, prima, perché non è vero. E poi lì c'era l'unico al mondo che lui parlava senza avere il telefonino in mano. Come la misura, perché ha inventato il microfono giusto, adatto, è efficiente, è efficacissimo. Cosa ha invitato il giusto? Lasciamoglielo credere, cosa vuole andare a dire di no a una persona, no? Uno diventa anche maleducato alle volte, se gli dice bavaggio, perché glielo devi dire, perché se lo merita l'altro, ma invece lasci perdere, sono voli e non se ne parla più. Sì, va bene, finché che trova quello che non si sbraglia, va tutto bene. Lui si lascia per uno che si sbraglia appena e dice vai e racconta cazzate da un'altra parte. Appunto, in effetti è così. Marco, sei entrato? Sì, sono qua. Ho trovato una vecchia come il cucco, una foto di Mitsubishi CB e autoradio, sia la scala della frequenza autoradio e sia uno smitterino tipo Pony, l'indicatore canale, la manopola squelch, ma proprio roba dell'anno dell'attacco, Se te lo sto dicendo, ce l'ho avuto io, se ce l'ho avuto, però il mio mi ricordo, adesso non mi ricordo cos'era, forse era Autobox, se mi ricordo bene, boh, non me lo ricordo più, sono passati 47 anni, ero Marco, e chi si ricorda più queste cose, anche perché l'ho tenuto poco, non è che l'ho tenuto molto, per cui, perché poi preso dall'euforia di avere una radio più bella, eccetera, eccetera, di quello me ne ero disfatto e l'avevo dato e avevo cambiato, insomma. Ma voi dai, amici, parlate tra di voi, dai, io devo scendere per la cena che mi hanno già chiamato già due volte, per cui devo scendere assolutamente. Ciao Franco, grazie per la chiacchieratina, dai, ci sentiamo domani. E ciao Marco, grazie anche a te per la chiacchierata. Fatti sentire però Marco, non entrare alle 8, no, caspita. In ascolto ci sono di sicuro, guarda, basta chiamare e ci sono. Ok? A domani, ascolto fino lì e chiudo. Avanti di fra. Anche io scendo, cazzo, è 20, io che 20. Non ho chiamato, ma ancora lo dico. Però a volte niente. Va bene, dai, buona cena, buon tutto, dai, ce la ascoltiamo, un altro della piccola chiacchieratina, ce la ascoltiamo con le prossimine. Ciao anche a te Marco, ti saluto perché me ne scendo giù anche io, perché dovrei essere già quasi pronto. Sono quasi pronto e tutto a posto. Ciao, buon tutto, dai, buon proseguo. Guarda là se trovi Alessio e quindi fai quattro chiacchiere. Ciao Marco e ciao Giulio. Sono qua, sono rientrato. Ok, di nuovo ciao a tutti, ciao Antonio, ciao, a domani. Io ciao, a chi va a cenare, buona cena domani. E beh Marco. Ciao Antonio. Ciao fra. Ciao Giulio, ciao Franco. Antonio, ma tu entri sempre all'ora che chiudiamo, chiudiamo. Peraltro mi ho scaldato la roba da mangiare e dobbiamo ancora pranzare. In cazzo, mi vuol dire, ancora pranzare. Ma io sono le cose che stavo cenando. Ho fatto la cena a Simona, prima quella l'ho fatta per me. Può allungare e quindi ho finito adesso. Poi ho preso la pancata, mi sono bevuto la pancata perché l'acqua era normale, non c'era un'acqua congelata. Mamma mia, Antonio, abbassa sto microfono, è tutto un casino. Aspetta che attacco il microfono, non male. Adesso è bello che va. Sì, c'è lo stesso, tutto sparato. Questo è il microfono amplificato, quello palmare, poco fa era quello la tavola. Ah, allora non è normale, è anormale. Sì, ha amplificato lo stesso, ma è nemmeno casino, in realtà è... abbiamo cambiato la capsula, già abbiamo il conto. Era un microfono allucinante. Ehi, che te devo dire? Vabbè, dai, purtroppo devo andare, dai. Ha fame, mamma. Capito? Non si alza dal letto, se non glielo porto io. Dice, quando è che mangiamo? Ho detto, ah, boh, io sono al baracchino adesso. Perché non si alza dal letto? Non fa di più a vivere che rimane tutto il giorno a letto, ma io sono venuti davvero. Come parliamo magari anche se no, ma vabbè, se la porta a letto perché c'è freddo, non per altro. Ci sono anche solo stufa in camera io, non si poteva stare stasera. Ehi Antonè, aspetta che ho salvato una foto qua, vediamo se me l'ha salvata, sì. Ehi, no, io sono in giacca ma senza stufa. Da, provvedo. Da, non credo che riprenderò, mi poi guardo la TV. Ehi, vabbè, se la dobbiamo riprendere ci sentiamo domani, al limite. Tanto già sono in giro, senz'altro. Oggi non sono uscito per niente, era un fuori dovuto. Vabbè, basta coprirsi adeguatamente un pochino. No, oggi pioveva, quindi non siamo andati a piazzare le segne. Un brutto tempo, pazienza. Ho comprato due cosette qua vicino. Hai fatto bene, hai fatto bene. Io stavo contando ai cinesi, l'altro giorno se c'era qualche cosa di nuovo, ma non c'è nulla. I cinesi di qui, no, quelli di giù. Qualche giorno con Giuseppe ci scenderei per Cina, a vedere se c'è qualcosa di nuovo. Beh, di nuovo cosa possono avere questi cinesi che non abbiano già? Hanno quasi tutto. Dalle mutande a... vabbè. Vabbè Antone, dai, ci sentiremo. Vado anche in bagno, ma la sto facendo addosso. Sì, d'accordo, dai, ci sentiamo domani. Buonasera con tutti. Ciao. È colpa mia che sono entrato tardi oggi, ma devo fare quella roba lì con quei videoregistratori, dai, ci sentiamo, ciao Antonio, ciao. Sì, abbiamo due videoregistratori se ti servono, non è problema, basta partire, ma c'è 150 videocassette.